strada, quando sabato si esce, dentro l'eco tra i palazzi vuoti, nelle strade con le buche, coi soldati lungo il fiume, nelle porte senza case, ho sentito tuo respiro dentro al mio, e sono stato felice, e non avevo paura di niente. Alla corte del re sole, fucilato di aggettivi, con la testa nella ghigliottina, dalla parte dei cattivi, senza credito allo sbando, soldi in nero e contrabbando, nei deserti di altre vite, mai vissute e mai capite, ho sentito il tuo respiro dentro al mio, e sono stato felice, e non avevo paura di niente. Perché le cose passano e l'amore invece resta, e mi piace quel momento alla fine di una festa, quando tutti se ne vanno e la musica si abbassa, e per terra vetri rotti e carta straccia, e si resta a parlare mentre fuori esce il sole. Vieni in mente, e non ho più paura di niente, e non ho più paura di niente. A scambiare due parole con il mio torturatore, con un sigaro cubano, poco prima di morire, ho sentito il tuo sangue dentro al mio, e sono stato felice, e non avevo paura di niente. Perché le cose passano e l'amore invece resta, e mi piace quel momento alla fine di una festa, quando tutti se ne vanno e la musica si abbassa, e per terra vetri rotti e carta straccia, e mi guardo un po' intorno mentre fuori esce il giorno, e tu mi vieni in mente, e non ho più paura di niente, e non ho più paura di niente. Guardo un po' intorno mentre fuori esce il giorno.